Radio. Chi era? Tu poco fa hai schiacciato la portante, tu eri? Eia, stavo fischiando, poi ho fatto sa, prova il microfono. Ho salutato Giulio là. Però te l'ho detto, saluto e poi non mi trattengo, che se no se stanno tutta la sera lì, vabbè, può essere pericoloso. Aspetta che saluto e torno qua. Ehi, fai i suoi tempiati. Eccomi. Eia, come mai tu scocci sempre me per questa storia e Giulio non gli dici niente? Cosa sono io, lo zimbello della frequenza? Che cosa? A Giulio non gli dici niente, no, di questa storia del PMR. A me mi stai sempre facendo due scatole così, come può essere? Cosa sono, ho detto, lo zimbello della frequenza? Lasciami andare Marco, che a me non me l'ha fottuto, né di quello che fai tu né di quello che fa Giulio. Io do sempre consigli, poi chi li vuole accettare li accetta, a me non me l'ha fottuto, io già non c'entro. Lo so che non vuoi entrare e non può entrare. Ma tanto anche se ti do l'omologato non entri lo stesso, anche se ci facciamo un canale nostro. Allora è inutile te lo dia omologato, ma omologato vero omologato, Sì, omologato che facciamo un canale nostro, può darci pure che entri. Giusto per fare due battute tra, non so, qualcuno, mi è entrato l'uomo del monte, via. Adesso ho perso il filo, va, porca miseria. Il filo, già un giorno che l'hai perso il filo tu. E quindi comunque ho controllato e Natalino non ha mandato nulla a me, nessun messaggio, però me l'hai detto tu, l'ho saputo tramite te, ma a rendersi così però, vabbè, io non posso mettere parola. Diciamo che lì la gente, i vicini sono quelli che sono, quindi minacciano, capito, fisicamente. Vabbè, quindi no, non dico niente, non posso mettere parola io, da? Sì, Marco, bisogna passarci per poter giudicare queste cose, capito? Non è facile. Io conoscendo Natalino da tanti anni, ho paura che faccia più danno a me. E quindi ammiro la sua decisione, che è tutto qua, non è che debba dire aggiungere niente, ammiro la sua decisione perché è molto importante, capito? Eia, ma tu hai paura che faccia più danno lui, cioè Natalino? Certo. Aspetta, il telefono. Già è lunga questa telefonata. Cosa, Giuseppe, cosa hai detto? Stavi controllando il microfono, così hai detto? Non ti ho capito, non c'è una modulazione un po' strana, cosa hai detto? Sicuramente. Prova a venire avanti. Ciao Gianni, buonasera. No, già stai arrivando Giuseppe, Santiago 8 stai arrivando, già va bene. Lascia tutto così, ciao Gianni. Orla. Giuseppe, mi ascolti, cambio. Ma Gianni, non lo senti dalla macchina? E allora rispondi, ti ha salutato. Buonasera Giuseppe, dai, sto venendo in zona tua, dai, sto partendo adesso. Adesso sono a Sassari ancora, già devo venire per Sciogliero, dai. Vedi qua. Dai, si andiamo dall'aeroporto. Non ho capito già. Sì. Sei tutto spezzettato, non ho capito niente, vabbè. Ha detto che stai andando nella zona di Alghero, vabbè. Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Arrivo bene o no? Adesso stai arrivando bene. Poco fa di tutto spezzettato. Probabilmente non ho premuto bene il pulsante del PTTK. Ah, 17. Guarda, ce la faccio, guarda. Sì, sono i finlandesi. Ma è tratto un esito, sono per Giuseppe. No, c'è anche la tappiniera, però al telefono, non so con chi. A me sempre bene, mi ascolti, sì, come ieri. Sempre di lusso, se no te l'avrei detto, cambio. E questo è sempre l'MV più 5. Bene, bene, va bene, bello, bello corposo, Sì, già, perché mi avete regolato i toni, io non lo sapevo, capito, c'erano i toni chiusi. All'inizio facevi paura, anche a presto si faceva lusso. Vedi, invece, basta una regolazione da niente. Perché c'erano i toni chiusi, pensavo che funzionasse bene con i toni chiusi, invece volevano aperti per smorzare un po' gli acuti, capito? Tante volte anche con parlare ascolta non lo regoli bene, no? No, no, già, anche se ti metti le cuffie no, non va bene a volte. Mi accorgo che col corrispondente è meglio perdere due minuti e lo regoli meglio, capito? Ma mettere sia l'olio che il radiatore, perché oramai chi getta sta andando al liquido e olio del radiatore. Come la mia Fiat 1 andava ad olio motore, non a benzina. Ma questa lo consuma ogni po', dai. Eia, quindi, eccomi qua, ero... No, mi ha chiamato Natalino, così mi sta spiegando che si vuole costruire là. È caduta anche la linea. Natali, se mi ascolti, è caduta la linea. A un certo punto ho sentito il silenzio, ho visto il telefono che c'era chiusa la linea. E comunque dai, ritiriti salutato. E vuole provare a fare la canna a pesca, a vedere se è migliore, se disturba, insomma. Vuole tentare varie cose, dai. E comunque per il quieto vivere, cosa non si fa? Un po' di gente ha dovuto lasciare il baracchino, non mettersi nulla per il quieto vivere. E vabbè, dai Claudio. Quindi ne conviene che quello che ho detto io è... E così, di questo vivere si fanno queste cose, perché poi, sai, uno si compromette, si crea problemi maggiori, quindi è meglio così, va bene. Adesso si cercherà di mettere un altro tipo di antenna e vedere un po' se il problema si può risolvere, tutto qua. Eia. No, perché Natalino dice che quella c'è la bobina, magari, non lo so, la radiofrequenza viene filtrata di più. Questa è una mia teoria, Però anche la energia ha la bobina, cioè non è che non ci abbia bobina. Non lo so, guarda, non lo so. Comunque ripeto, lui da lui non disturba. Il suo televisore non disturba, caso strano disturba quello degli altri. Tutti dicono che hanno messo l'antenna nuova, sì, è magari il capo vecchio di 40 anni, no, per dire. E poi magari ha paura che lo denuncino. Cosa denunciano? L'unica cosa possono chiamare le scomposte e si pagano l'intervento, se è a pagamento. Fa che lui ci ha l'omologato. Poi ha detto che sicuramente tutti questi vicini hanno un amplificatore. E sai che l'amplificatore, poi se dicessi cinesi, già ne porta poca mondezza dentro. Vabbè, bisogna vedere. Bisogna sempre vedere se quello che si dice è realtà, perché uno può dire quello che le piace, poi bisogna vedere se è vero, se è realtà, capito? Tutto qua. C'è anche Giuseppe comunque d'Alghero, Avanti Giuseppe, senti a Marco. Ciao Giuseppe. Bene, bene. Oggi va bene, non sono uscito, ho preferito rimanere a casa, casomai usciamo domani. E allora, come va? Questa benedetta antenna, eh? 7. 9. Adesso glielo dico. Eia. E Valerio c'è d'Alghero adesso? Valerio? Non l'ho capito, Valerio. È troppo largo di emissione, certe volte me lo sento strappato. Devi togliere la NL. Il filtro è Vittorio, per sentirlo bene. Anche a me fa così, anche a Gianni. questi colletto è un casino, bisogna togliere il filtro, se no lo senti strappato. Ciao Vrei, buonasera, ben ascoltato. Qua già arrivi, non c'è problema, sei in off. Con picchi positivi, anche se sei staccato, già arrivi. Però se dai molto ecco devo togliere l'NP, se no mi strappi, capito? Ah, metti tutto com'era, cosa? Pronto di vegani. Metti tutto com'era, già lo disinserisco io, il noise blanker, e non arrivi strappato, capito? Non c'è problema. Vai, Giuseppe, mia, Valerio, me. Oh, me l'ha già detto Giuseppe, non ci scende questa settimana lui a Sassari, capito? Ce la salgo io sabato, Giuseppe, non ti preoccupare, che non sta bene, capito, vai? C'ha una gamba moscia e quindi non sta uscendo. Già salgo io, non ti preoccupare, sabato pomeriggio salgo io e te lo porto. Avanti, Marco. Eia, peccato però che non entra adesso a Salino. E vabbè, finché non risolve. Poi forse vuole tentare di mettere un palo più alto. Non lo so, io sono scettico sempre, perché se vicini hanno un amplificatore non c'è palo alto che tenga a me. Vabbè, tutto si può tentare, però mamma mia, e come si fa a mettere quel palo alto lì? È un casino, me. Più l'antenna, e come la tiri su? È un casino, già lo so che è un casino. Un casino, alla grande. Datemi un secondo che non mi sono accorto che sono messi in 20 e vado a mangiare il cane. Se prendi tu, Marco, fai girare con Giuseppe Valerio un minuto. Sono rientrato, E io. Ciao Gianni. Non più che la macchina è la moto vecchia, la Kawasaki. Le fasce erano talmente a terra che quando facevo il piano dovevo mettere la benzina, il serbatoio e l'olio nella coppa dell'olio. Ma questa qua, stavo scherzando, non le consuma. Tra una e l'altra le consuma a mezzo chilo, là. Eia. Beh, forse no, la vecchia 1, adesso non mi ricordo se è la 126 bis o la vecchia 1, siccome non era molto di fascia, non teneva bene, allora consumava olio, fumava un po' bianco dallo scarico, e quello è l'olio. Che mal di pancia. Dove c'è fumo bianco dallo scarico sono le fasce, non è l'olio. Sono le fasce consumate che si mischia il liquido del radiatore con l'olio. Ma anche brucia olio con le fasce basse, brucia olio e fuma bianco. Ma lo sai cosa mi era successo? Con la vecchia Kawasaki 250. Ero in via dei Mille, no? Stavo per arrivare lì all'incrocio con via Le Mancine o come si chiama. A un certo punto dallo specchietto vedo questo fumo bianco densissimo, un mare di fumo bianco. Cos'è successo? Mi è partito un paraolio e praticamente dalla marmitta è uscito questo fumo bianco densissimo, non ci vedeva più dietro. Se li pure di Fugazzi, dai. Non so, ne ho visto una di macchina a casa, ma quando mai uno si rende conto che non si può viaggiare così? Faceva il nuvolone, se ci fosse stata qualche macchina di vigili urbani l'avrebbero arrestato. Ma lo sai quanto stava inquinando? Un nuvolone bianco è quello che continuava a camminare. Qualcosa ho visto, gente che guidava in quelle condizioni. Allucinante. Aspetta, stavo guardando una scheda qui con i valori, bla bla bla. Bene. Vediamo se c'è Antonello l'ascolto. Pomponio, ci sei? No, deve essere indaffarato. Riprendi Valerio. Valerio. Ma o non lo sento io, oggi è liscio, o si è allontanato, dai. Oh no, lo sta parlando Marco, non ho sentito nemmeno io. Ho sentito a Giuseppe dalla macchina, cioè, che ha parlato con Alghero. Io sono diretto verso Alghero, dai. Deia. Viaggio di piacere, cioè per fare una scampagnata. Viaggetto. Deia. guarda, io non vedo Alghero da vari anni, perché alla fine fare tutta quella strada per pigliarci una piccetta quadrata lì alla torre e vedere due bancarelle tutte uguali, in estate non ci siamo più andati. Sì, ma si fa per fare una passeggiata, ti fai gli occhi, vedi le turiste, cosa siete sempre? Bisogna andare, bisogna girare. Sì, anzi, bello era in piena estate, pieno di turisti, pieno. Poi ad agosto non ne parliamo. Però a cercare di trovare parcheggio in estate era una cosa deleteria, non so se è presente. Vabbè, a me è sempre piaciuto Alghero, a passeggiare, coso, devi avere la persona con cui andare. Eia, la persona giusta la sto ancora cercando io, ma a meno che non piova dal cielo. E aspetta e spera tu. Cullati sugli allori. Una bella straniera, ragazzi, vedrà che vado anch'io al Alghero, una bella straniera però di 18 anni, me la siedo in grembo e mi faccio fare caro. Vai Natalino, perché stai parlando? Ah, disturbatore dei televisori. Un briacone tragico. La tentazione è forte, ah. Ehi, ben entrato, dai, casomai fai passaggi brevi e non succede niente. Eia, com'è da quella canzone? Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Di chi era? Non lo sapete di chi era. Non lo so manco io. Non lo so, ma non mi ricordo il nome. Voglio andare ad Alghero in compagnia di Natalino. Eppure vedrai che Natalino me lo acciuppo, me lo devo acciuppare. Senti sempre bene, Marco? Sì, già lo credo. Ecco, si sente? Sì, leggero. Sono sulla quattro corsie, cambio. Ottimo, fai vedere il segnale. Prova, 1, 2, 3, questa è l'antenna nuova, la PLC 800. 9 più 20, mi sa che va meglio dell'altra, che era ossidata forse. Questa è nuova, però di la verità, non sei liscio, vero? Di la verità. Non sei, o sei? Vabbè, comunque ottimo, veramente ottimo. Guarda, il rapporto spesa-resa di quelli là è sempre il migliore. Già hai capito, quello che hai tu e quello che ho io, il rapporto spesa-resa è sempre il migliore. Perché poi se uno vuole salire ancora spende un bel di soldi e non conviene. Cappa. Ah, ho capito. Tu la abitavi con la pinza per non fartela fregare, così è. Purtroppo è così però. Magari te lo fanno per dispetto, come avevano fatto Antonio Grotte. Gli avevano svitato l'antenna e gliel'hanno svitata dalla macchina, capito? Per sfregio, me non credo che fosse un CB. Sarà qualche vicino stronzo che gli ha fatto lo sfregio, capito? Ma Sassari sì, già. Ho detto se sia Sassari ancora. Sono quattro così per Alghero. È buono segnale. Buono. A me mi ascolti, sì. Marco, io sono tutti molto bene. Già funziona bene, non c'è problema. Eia, guarda, quando l'ho avuto anch'io ero entusiasta e l'ho avuto, pensare, fine anni 80. Aspetta, e la vendono ancora, quindi vuol dire che è un'antenna riuscita. È la piccolina, la Minox, ma chissà che avevo io nella prigione, ci rimaniamo tutti attenti, quanto ci va forte a quella che è. Quale? È tipo una frusta nera, era caricata con la molla, ma io partivo da per farmi con Gianni di Sugar, c'erano l'impianto con la macchina, mai avuto in vita mia, che manco da ragazzino di Sugar un impianto che avevo fatto in quella macchina. allucinante. C'avevo il 706 MK2G per le VHF, e poi c'avevo l'Alan 48 che avevo comprato modificato da Gigi con un 750, ma era, non era della ZG, a MOSFET. Mamma mia, da paura, che nulla, tutto tarato alla perfezione, l'antenna c'era con lineare attaccato 1-1 di stazionaria, capito? 1-1 di stazionaria. Poi ce l'avevo davanti, ma una bomba era questa antenna, una bomba. Ma non c'era stata la PLC 800 in fibra, fibra nera? Perché una volta, prima di questo in acciaio, anni 80, usavano proprio la PLC 800 o 1000, adesso mi dico, in fibra nera, e pare avesse una mollona alla base. Si chiamava la Sigma 10, quella che stai dicendo tu, ce l'ho avuta anche io sull'850. No, no Marco, questa non era la Sigma 10, c'ha ragione Gianni, questa è una frusta nera proprio, comprata in fiera, un residuo in magazzino, capite? Mi è piaciuta subito quando l'ho vista, mia Gianni era innamorato di quell'antenna, ma lo sai quanto pompava? Io a Piazzale Cini ho fatto le prove, affiancato, una cosa allucinante, io partivo da Perfuas, subito dopo la piana di Chiaramonti, parlavo con Sassari, ma forte però me, 13 anni, e poi sono andato allo spuntino, l'ha vista da Gigi, l'ha vista Pinocchietto Moro, ce l'ha ancora, guai a toccargliela. Sì, sì, comprata in fiera, volta me l'avevo data io. No, ma l'altra che c'aveva non era uguale a quella, era diversa, pompava lo stesso, ma quella che ho dato a Pinocchietto è praticamente un tubo in rame con questo filo che sale da giù tutto arrotolato sino a su e poi rivestita di gomma nera, capito? Invece l'altra, quell'altra che era volta, era in fibra, quella non era come quella lì. La mia era un tubo in rame, Marco. Un tubo in rame, ho tolto il cappuccetto da sopra, l'avevo spellato appena appena per vedere come era fatta, era un tubo in rame. Comunque tu la chiami frusta nera, ma frusta nera è un nome generico. Ebbene, le marche di allora quelle erano i Sigma, cosa poteva essere? Boh. Non lo so se era Sigma, Lem, cos'era. Sì, beh, noi la chiamavamo la frusta nera. Mi ricordo c'aveva anche la Bonema e Vincenzo, del fino bianco, c'aveva la Colibri, quell'arancione, aveva lui, Corsaro, tutti e due uguali e Vincenzo, anche perché c'erano la stessa macchina, sia Corsaro Nero che Vincenzo del fino bianco, mentre Ernesto aveva, nella 128 aveva la Colibri, la balla frusta nera, capito? Andavano molto quelle antenne, altrimenti la Colibri o già chi da arancione, Gianni, sì, va bene, andavano molto bene quelle antenne, porca paletta, tanto funzionavano, adesso vai a cercarle tu quelle antenne di quella generazione, Marco, e allora le truffi. Guarda, io mi ricordo che 131, no, Marco, aveva un'antenna tipo frusta nera, sempre nera, in fibra, lunga, poteva essere anche la stessa, ma quella ce l'avevano tutti quelli fissati con le potenze macchina avevano quell'antenna lì, ed è sicuramente quella che hai avuto tu. Sì, uguale a quella che chiama Marco, sì, me lo ricordo bene, la Renault ce l'aveva, sì, uguale a quella lì era, però poi non si trovavano più, io ti sto parlando di cosa ti posso dire, del 2000, quegli anni lì, capito, 2000, 2002, non ce lo mi ricordo, quell'anno lì che io ero a Perfugas e c'avevo quell'antenna lì, però a comprarle non le trovavi più, capito? Eia. Ma io per 131 ti sto parlando anni 80, 86, 87, 88, quegli anni là erano. erano proprio quelle di quando sono entrato. Dopo ci sono state probabilmente delle evoluzioni e adesso in fibra c'è poco meno. O ci sono cavolatine da 60, da 70 centimetri, così tipo chissà della polizia, mi la fanno uguale. Oppure c'è quella tipo protezione civile, tipo Baracelli, è un mollone nero largo, mollone cromato largo, no? A giri larghi, e poi lo stiro in fibra nera, che però non è lunga, sarà un metro, 1,10 massimo, capito? E simile a quelle proprio tipo Baracelli, forestale, protezione civile. E quella lì, tipo quella, cioè ti sto dicendo, avevo quella davanti, allora la mia macchina era uguale a quella della Guardia di Finanza, precisa identica, la Saxo blu, precisa identica, civile, ok, con la targa civile, sa quante volte l'antenna era la Comet B10M nera, uguale a quella lì, a centro tetto, a centro cappotto. Quando c'erano che io viaggiavo là da per fuori da Sassari, sai quante volte a Saccaggia, a Provare, che trovavo i carabinieri nel posto di blocco, mi salutavano e io salutavo. Sempre gli stessi? Ah, aspetta, Gianni? No, sempre gli stessi, tutti mi salutavano, i carabinieri, la polizia, tutti, perché sembrava una macchina della Guardia di Finanza, capito? Una civetta della Guardia di Finanza, era precisa e identica, con le stesse antenne, uguali. Mamma mia, già lo credo, ti salutavano. Ah, Natalino, se sei all'ascolto, ho trovato l'autrice di quella canzone, è Giuni Russo. Giuni, scritto Giuni Russo, manco me la ricordavo. E l'anno di quella canzone era l'86. Non c'è manco la foto di questa Giuni Russo. Vabbè, qui c'è Luca del Monte di Giove. Allucinante. Quando parcheggiavo via Pascoli, la Guardia di Finanza, mi occhio per la Guardia di Finanza, ma che Guardia di Finanza, chissà, ma che era mia, la Guardia di Finanza. Allora, ai tempi di Carlo Spimero, quando era 27, lui all'epoca ci aveva in macchina tipo o il multimo dei tre o il multimo dei due, uno di quei due, vale il tre però. E temeva quando vedeva quelle Panda, la vecchia Panda, modello blu, quando vedeva le Panda blu con un'antenna sopra, temeva, perché lì c'era, poteva essere tipo polizia borghese, non lo so. Così mi aveva detto lui almeno. Sempre anni 80, 86, 85. E allora quelle antenne erano in vendita, capito? Erano in vendita. Ma io quegli anni non ne avevo barche in macchina, non mi interessava, capito? L'avevo messo quando viaggiavo da Perfua, poi c'avevo il 48 colto, quello modificato, quindi avevo fatto l'impianto in quella macchina che avevo preso giusto per usarla per andare a lavoro, perché io c'avevo l'Audi, capito? Avevo l'Audi Station Wagon, per non metterlo lì avevo comprato una macchina da farmi un impianto e viaggiavo con quella lì, era un 1100 a benzina. Uguale, precisa identica a quella della Guardia di Finanza, precisa, capito? Macchina civile, ce l'hanno sempre quella macchina lì, quella civetta, la Saxo blu, della Citroen, capito? L'ho visto anche da poco, e ce l'hanno, se guardi, tu l'antenna a centro, cappotta nera, piccola, per, cos'è, V1, non so cosa, dove trasmetto. Quella lì, la mia era precisa identica al centro, poi davanti c'hanno quella col mollettone nera, lo stesso, uguale, stessa macchina, stesse antenne, capito? Per quello va molto all'occhio. E mi ricordo quando passavo lì nei posti di blocco, a Ploaghe, Saccaggia, vedo lì, i carabinieri salutavano, io salutavo, suonavo, bibì, a pigliare in gomma le vostre mani. Santiago 9 con picchi positivi, e a me come mi ascolti? Santiago 7 qua, Gianni, però è attaccato, No, vabbè, io ti ascolto. Ti ricordo che accompagna Valerio sino sotto casa sua, quindi non ci sono problemi, già, capito? Ma Valerio non c'è più, Giuseppe non c'è più. Ehi, a Santiago 5, un po' di QRM c'è oggi, elettrico. Ma io mi ricordo perché quando erano gli anni 80, per esempio, quando non c'era QRM, per esempio di notte, c'era un silenzio di tomba, non c'era un filo di QRM. Adesso invece ci sono anche di notte tardi disturbi elettrici, magari bassi ma si sentono. Ci sono troppe cose elettroniche che una volta non esistevano. Cazzo. Sì, no, quello, le scariche, quelle cose lì sono sempre state. Vabbè. Ok, ok, ok. Dove sei adesso già? Dentro Alghero? O dove stai passando? Da Olmedo? Vabbè, per Porto Conte stai andando, dai. Per Tramariglia, Porto Conte, quella zona lì, Portoferro. Sempre Santiago, ma sei qua, non sei calabrese. Non ci vado più. Mamma mia, quanti anni sono passati. Sì, prima anche con amicizie si andava di più, si andava da una parte all'altra, a casa alzata. Adesso non mi ci fa pensare, se non mi deprimo. Capito, hai già, Santiago 9 stai arrivando, sempre Santiago 9, non sei calato niente. Tieni conto la mia posizione, per Alghero, quindi no, non fa testo, invece da Marco sei calato, così è Marco. Oscilla 5, 6, 4, 5, 6, capito? Sì, lì è una media di 5. Sentito lei a Marco già. Vabbè, c'ha 4 watt, io ne ho 20. Vabbè, ma 20 come radio e 50 come posizione, vero Valetti? Adesso tassillo anch'io. Ma tu non dovresti usare 4 watt con l'omologato. Oh Claudio, poi quello che mi secca del linearetto, che se non puoi scegliere, o ne metti 70 con 4 watt, ne darebbe 80, ma io c'ho il filtro anti, filtro 5 celle, quello buono, cioè ne posso mettere o 70 o niente. Sarebbe piaciuto poter pilotarlo meglio, ma non posso, perché questo è fisso 4 watt il baracchino. Anziché 70 avrei avuto piacere di usarne 20, 30 per dire, c'è una via di mezzo mi, senza aumentare troppo, però non posso, c'ho la potenza fissa, che ci posso fare? Ho visto un RM Italy, un RM Italy tipo il D30, 35 watt massimo, 30 watt, con 4 watt ne dà già 30. Solo che ho paura che esca male, c'è un solo finale MOSFET, oh, costa pochissimo, costa 20 euro mi pare, 20, 23 euro, ma non vorrei fare un brutto acquisto. No, quello c'è Giuseppe è regolabile, da 1 a 6, capito? Quindi lui lo può regolare, quello che gli ho fatto io, da 1 a 6 potenza, dai. Lo può regolare da 100 watt, lo può far scendere anche a 10 watt. Uno di quelli dovresti avere tu, perché 747 non è regolabile, o tutto o niente, capito? Va bene, va bene. Ah, sei in macchina, va lì. Ah, sei a casa, hai detto svincoli contro svincoli, pensavo ti stavi muovendo in macchina dentro la ghetto. Dove sei già? Lido? Non arriva più qua. 7-0 le fai dentro al ghetto, va lì. È sparito Gianni. Ma io a te ti sento quando sei a Lido. Capito? A Gianni invece è sparito, boh, non lo sento più. Ma tu stai paragonando una veicolare con un'antenna 5 ottavi, no? Cosa Valerio? 5 ottavi sul tetto? No, no, no, dalla macchina sto dicendo Valerio. C'è una 3000 Valerio in macchina, è una bomba Sant'Enna. Turbo 3000? Al porto ti ascolto benissimo, Santiago quasi 9. È proprio come ha detto Valerio, allora la zona del Lido è una zona un po' balorda. Cosa c'è? Cioè, infatti molte case alte e diventa un casino. Ciao, ciao, ciao, Santiago 9, dai, ci sentiamo dopo al limite, vai Marco. Eia. Eia. Ma non ho capito, ha detto chi c'è Natalino, ma dove? Ma che dei Gianni? No, negativo, Natalino ma che dei Gianni. Ti ha chiesto Valerio se c'era anche Natalino qua, così hai detto Valerio. In ascolto, digli. No, non lo so, se c'è Gianni compagno. nelle compagnie. Non sono così curioso da fare tante domande, non lo so, avete trovato a fare un giro, poi con chi è, non lo so. No, Natalino non c'è in radio, vale. Non può entrare perché sta disturbando e quindi non entra. Niente, anche con l'omologato disturba, quindi sicuramente ne dobbiamo togliere l'antenna. No, si toglie quella e nello stesso tubo ne montiamo un'altra senza radiali, capito? Sì, un'antenna tipo canale a pesca, ma se la sta costruendo lui, poi vediamo. Beh, Giuseppe, tu continui a disturbare per forza, c'è l'antenna attaccata all'antenna TV, è chiaro che disturbi. Quell'antenna voleva tolta da lì, visto che la stavi facendo. È messa da un'altra parte, già ne hai spazio. Non c'è bisogno di metterla sul tetto, no? O Giuseppe, si poteva anche qualificare da dietro, da terra, capito? Vuol dire, anziché 2 metri, come ne hai di palo, se ne mettevano 5, sì, e si faceva un piantone da terra, oppure, capito, facendolo agganciare dall'altra parte. E la roba, per capirci, c'è il giardino, no? Da quella parte lì. Si poteva trovare una soluzione migliore e da lì toglierla definitivamente, così non rompi le scatole a tuo nipote. Il sabato faccio il sopralluogo, vediamo. Va bene, avanti Marco. Che differenza trovi di radio da un microfono all'altro? O è molto simile? Sì, lo stesso microfono, però abbiamo fatto delle regolazioni ieri con Gianni e Massimiliano, capito? Non è l'MC60, è un altro microfono. La radio è sempre quella, però il microfono è diverso, capito? Simile a quella, dai, non è il 440 comunque. Invece adesso non strappa, così. Questo non è il 440, questo è il 430. Il microfono non è un MC60, è un altro tipo di microfono. Si assomiglia molto all'MC60 o no? Ok, è uno strappa, quello volevo sapere, perché abbiamo trovato la misurazione giusta, dai. Abbiamo fatto delle prove. È praticamente una parte intermedia, c'è un po' di differenza rispetto al 440, come 440 lo tengo quasi a 2 come Mickey Gay, questo ce l'ho a 1, capite? Quindi mi serviva quello, come Massimiliano ieri l'abbiamo regolato, adesso già va bene. No, non tocco niente, non ti preoccupare, non sono di quelli che va a toccare niente. Una volta che è regolato, va bene così. No, perché c'ho altri tipi di microfono, usare sempre il 60, non capite? Allora abbiamo fatto delle prove e già va bene, dai. Marco, dove sei? Seduto, mi ero allontanato un attimo, dai. Non è che stai già pappando, no? Ma sto uscendo. Sì, ti ho detto, non è che stai già pappando. Pronto? Ah, secondo me è sotto, grazie. Ciao a tutti. Ciao Guerriero, evidentemente ha abbassato il volume, sto uscendo, se no attiro il volume, rincoglionito. Eia, dimmi tutto. Avevi abbassato il volume? No, sono rincoglionito io. Ah, così è. Lucario, dimmi che andava via la Saxo, quella della Citroen blu, a che macchina si assomigliava? Uguale a quella, a che cosa era? Era la Fiat. Ti mette le antenne, va via. È vero. Sai che non ce l'ho presente, che antenne ha la finanza? Non ce l'ho presente, no? Cambia discorso, vai. Lui ha antenne, c'ha la finanza. Antenne c'ha, capito? Quelle che così. È praticamente uguale a quella che c'avevo io. Avanti Valerio, lo senti a Lucariello? Via. Visita parenti, perché anche parenti al monte c'hai. Ah, così, allora già va bene, dai. Avanti Lucarie. Ehi, ciao Valè. Mica mi ha dato un computer da riparare. Giusto per guadagnarci qualche soldino, dai. Adesso devo controllare la Tina. Poi vedremo cosa c'ha. Se devi dare una controllatina vuol dire che lo sai già quello che ha. No, quello che ha, cioè, mi ha detto che si accende e dopo poco si blocca. Ma io penso che due sono le cose, o la metto la sporca, sul riscaldo con protezione, oppure la dischi. Sì, se la metti in su mi faccio io, l'altro vecchio. A voce accende, a voce non accende, a voce accende, a voce blocca. a voi andare in tinte, non ho mai ci venuto a portartelo, e immagino che stai andando in ferie, gente. No, invece te lo porto, me lo fai nuovo quello lì, perché ci sono un bel didatti, capito, che mi interessa. E non c'è problema, già siamo qua. Kappa. Ok, avanti, Giuseppe. Radio 1, ciao. Ti vieni al timer pure a te allora. Figurati da me, c'è Santiago quasi 9 e la radio non è. L'unico problema è tirare sulla radio in quel cacchio di baracchino, porca miseria. Non è che c'è un connettore particolare, sennò avrei attaccato subito l'MB+4, lì bisogna fare un lavoraccio. Ma che baracchino è, si può dire? Un base con attacco di quelli a punta, capito? Non a ghiera 4. A punta. C'è da fare la tua. Ma Tel, dimmi sì o no. Tel. Pelle? No, ne ho pelle io. È un base 220, anziché avere attacco a 4 c'è un altro tipo di attacco, di quelli che si entrano, che si infilano all'interno senza avvitatura, uno di quelli c'ha. Ce ne ho tanti apparati così, quello originale non è mai stato toccato, per esempio anch'io ce l'avevo così nell'Inuit, e Gigi Vulcano me l'ha modificato, per dirti, quello invece è rimasto originale. No, ho detto Tel, Tango, Telsat. Simile, sì. Oh, ecco, Tel, avevo detto Tel, Tango, Eco, Lima. Ok. Lo so, un macello, ci vuole un bel, davvero un MB+4, un 5, anche perché lì puoi regolare e ottimizzare i toni, no? E comunque un 4 nuovo da fusaro me lo voglio accattare, non subito, un giorno me lo accatto, voglio anche quello, capito? Molto bene, Luca, riprendi. Ma io sono qua un attimino impegnato con un computer, sono qua in ascolto, poi mi attacco un tastino dalla tastiera, che è un casino, una mollettina, un giramento di scatole. Appena finisco riprendo, ora. Mica ti ho mandato una foto con un messaggio, Marco, che me l'hanno mandata. Guarda, sono quelle le antenne. Riprendi, vai, tanto Giuseppe disturba, quindi lo lasciamo in parcheggio, dai. E beh, cosa sarebbero, Claudio? Una sembra una Performer 5000, Performer, la migliore antenna credo sia, a prezzo accessibile, perché le avanti costano troppo, le avanti è tutto fuffa e le altre, c'era una Turbo 5000, non so chi sia. Cazzo, c'è anche scritto, sai leggere? Te l'ho scritto? Cioè me l'hanno scritto, che te ne sono, i Muzzi. Ah, eccola la scritta, l'hai mandata prima, allora. La Grigio 5000 Turbo, no, che sarebbe la Sirio Performer, capito? Una delle migliori. Un po' sciupata è questa, ma poi... vabbè, leggo, dai. 14 anni c'era il camion. Ma siamo andati e Gigi, io sono andati a te. 14 anni nel camion, quarantenna. Sì, non sai cosa vuol dire. Esiste anche la 1000 di Performer, che praticamente è lunga sempre quasi 2 metri, ma tiene meno fasce. Per chi non vuole troppi fasce, ma un'antenna bella lunga. Ma la stavo corteggiando anch'io la 1000, la Performer 1000. Claudio la conosce bene quell'antenna, e l'ha ascoltata tantissime volte, e lui, anche da Santa Giusta lui lo prendeva con quell'antenna lì, figurati un po'. Eia, per esempio la 5000 Performer è troppo pesante, la 1000 quanto pesa più o meno? No, scusa, quanti watt tiene? Non lo so la 1000 quanto tiene, quella ne tiene 5000, e quello sei sicuro che ne tiene 5000. Niente, quella mi ha dato tanto di quelle soddisfazioni, l'ho levata dal camion, cioè, c'è il cavo grosso quello, è molto grosso, l'ho tolta dal camion e ti dico è rimasto tutto cromato sotto, anche il cavo perché è grosso, è rimasto tutto, e c'era 14 anni sotto nel Mercedes, fuori mia nella staffa d'acciaio, lucida come, cioè, non anche del coso, la rondella, tutto quello che la teneva sotto, e ne ho tolta tutta tipo cromatura, acciaio cromato. Anche il capo, non ho preso mai uscito, in 14 anni mi era peggio di neve, di temporale, di cose, sempre pure il cambio, eppure l'ho tolta lucida come il coso. Giustamente un po' la vernice si è stata un po' graffiata, ma all'interno non so neanche se apre con l'antenna, è difficile aprirla pure, ma hai visto, ti ho mandato la foto come è fatta dentro? No, dentro no, dentro non me l'ha mandata. Allora te la mando, ci sono le caratteristiche a te. Ehi, mamma mia, l'alimentatore ha ricominciato, mio. Vai Claudio. Guarda che, Claudio, guarda che la performance 5000 rispetto alla turbo è impressionante, mi la carica. Claudio. Quella Marco l'ho fatta arrivare, la prima l'ho fatta arrivare io qua in Sardegna per me, non l'avevo scelta io perché no, sono stato io a far arrivare quella lì, quella terra lì, ma 14 anni, no, aspetta, 14 anni, 14, quando mi è arrivato il Mercedes, l'ho tenuto 14 anni io, però io ci manco già 2 anni, 16 anni fa l'ho fatta arrivare quell'antenna lì, già 16 anni quell'antenna, però è 2 anni a casa parcheggiata, Eia. Aspetta, ma tu a chi la stavi mandando, a me o a Claudio? L'interno dell'antenna. A Claudio, a te non so come fare, a Claudio l'ho mandato adesso, a te non so come. No, ma io c'ho perché c'ho la vecchia rivista di quando l'ho ordinata, c'ho. Eia, no, sai perché? Claudio si è allontanato perché è arrivata gente. Si è allontanato, quindi me la manderà più tardi, dai. Comunque io l'ho vista mi su internet come è fatta la 5000. E c'è una bella. Guarda che. Caspita, rispetto. Guardando le dimensioni della Turbo 2001 rispetto alla Performer, è impressionante. E l'ho messa apposta a fianco per farti vedere la differenza, che l'ho messa apposta, hai capito? Anche la 1000, la Sigma 1000, quella è una Sigma 1000 e quella nera, e quella è la 2001 Turbo, capito? L'altra è nera e la Sigma 1000, capito? L'ho messa a fianco per far vedere la differenza, capito? Eia, peraltro io mi ricordo anche una cosa, che la Turbo 5000 o Performer, a vari nomi, no, in base all'attacco, ti davano di serie un cavo speciale per alte potenze, non un cavo coassiale, che aveva, mi pare, la guaina trasparente e vedevi la treccia in rame dentro, quello lì avevi tu. No, negativo, quello non serve il cavo, no, è grosso, proprio nero, tu nero come l'altro, però è più grosso e più robusto, capito? Ti sto dicendo, non è rimasto fuori, gli ho tolto sempre nuovo quello lì, avevo 14 anni nel Mercedes, l'ho tolto, c'ho tutto qua a casa, cavo e antenna, base, tutta completa, anche la tappa, tutto l'ho tolto, c'ho tutto a casa, c'ho. E ti dico una cosa, io faccio molto foresta burgo, so. E le piante le prendevo, ma sai cosa ha preso di colpi con l'antenna? Tu non te lo immagini, eppure non gli ha fatto mai, non l'ho mai rotta, non l'ha fatto mai niente, mai non succede, eppure c'erano delle lineari croci che in camion, eppure rendeva, guarda, era un mostro quella, in recessione e trasmissione, che non se ne, c'era una differenza dalla 2001 perché io mi sono fermata, ma com'è un giorno, e ho fatto le prove, toglievo una, e tante volte sono fermata anche a Campera, facevo le prove a Sassari, toglievo la, perché c'era lo stesso attacco, no? Mettevo la 2001 e mettevo quella lì, c'era un abisso di recessione e di trasmissione, ma un abisso completamente tra la 2001 e quella lì. Addirittura un abisso. Io avevo detto a Massimiliano Bulldozer che mi pare era qualche dB in più, invece cazzo c'è un abisso. Sì, da Macomè a qua sì c'è un abisso, da uno all'altro, da Macomè stiamo parlando noi. Eia, ma un abisso di quanto? Un Santiago oppure di più? Qualcosa di più c'era, perché con quella malapena facevo fatica a farmi sentire con la 2001, invece, no, quasi come recensione era quasi uguale, come trasmissione era più forte quella lì, ma molto più forte. Aspetta, ho più una super antenna. Addirittura questa 5000, no? L'hanno fatta con l'attacco da 3 ottavi di pollice per i camionisti tipo americani o inglesi che usano l'attacco da 3 ottavi di pollice. L'hai vista in catalogo? Sì, ma la migliore è quella lì che ti ho messo la foto io, quella è la migliore che c'è, perché già provate quella, dai, l'avevo comprata con accesa la mia. Perché? Ti dico perché l'ho comprata accesa la mia. Noi in cambio, tutti e due, una fianco all'altro, se no ci fermavamo e ascoltavamo in lontananza quelle di Cagliari, no, a metà strada, però io sentivo chiari quelle di Cagliari e lui non le sentiva nel camion suo. Allora provavamo a cambiare il baracchino perché non sia il baracchino. Niente, era l'antenna, capito? Era l'antenna. E allora lui se l'ha comprata, la parata roba di 140 euro, se l'ha comprata precisa, messa l'antenna e allora la vuole a me. Capito? Sai che mi sta squillando? Eia. Allora, credo di essere lontanato. Lì l'ho visto il trapanino bello rosso, il mio è uguale ma è nero, mi pare nero blu, una cosa del genere, con gli stessi accessori, sia la bustina con tutti gli accessori sia il cavetto che hai detto tu, come si chiama, il flessibile. Dammi Roger, se hai ascoltato. Oh, devo un attimino che mi hanno chiamato al telefono, c'è gente giù che mi ha sentito un attimino. E io, Luigi, vai pure. Oh, yeah. Ho visto il bip, Natali, vuol dire che non ti potevo rispondere alla WhatsApp perché stavo parlando qua, dai, se no non mi impapino. Mimi, PMR, mi. Tutti in PMR, tranne noi che ci facciamo condizionare, vero Natali? Da qualcuno? Valerio, ci sei? Beh, c'è nessuno, dai. Se c'eri, ma dove sei? Sei a casa liscio o in macchina? Ehi, aspetta, di nuovo WhatsApp, un attimino. Oh, va. Dimmi solo se hai i 6,25 kHz. Marco, ma Natale lo disturba. Eia, no, non sto parlando, è disturba. E lo stanno assilando malamente. Micchia, sei anche di San Terrestre. Strano. Cuomane. È vero. Io vero. Come mai stai masturbando la sua vita? Troppo bassa. Adesso mi faccio la canata e se la tiro più su. Io sempre giro metti di balle, ma che ho sempre stati. Io li ho sempre avuti, sempre. Oia, per carità. Oh Luca, ma una volta non ti avevano spillato il capo? O roba del genere? Tre volte l'hanno tagliato a me. Tre volte? Sì, l'ambiente è quello, mi. A Natalino, se avessero potuto gliel'avrebbero tagliato. Guarda il messaggio, Natalino. Bastano anche i primi tre numeri decimali. Ma Natalino è cuocomane, allora voglio tagliare, io non sono cuocomane. L'ho tagliato perché i cuocomani sono pericolosi, invece quelli non sono cuocomani, sono bravi. Ah, non parli, eh? Non parli? Devo far squillare il telefono tutta la notte. Comunque non è il solo, io ho avuto problemi, io ne ho avuto. E mi cado il caldo, già lo sa. Eia. Poi sai cosa, lì c'è un giornalista, secondo me come fa, dice che gli blocca il computer. Poi nota una cosa lui, Natalino al suo televisore non disturba per niente, però caso strano disturba gli altri, capito? Addirittura il giornalista dice che gli si blocca il computer. Dove si blocca il debito al giornalista, al tuo computer? Come va, purtroppo, io ho messo qualcosa, vedi un po', ho avuto guerre contro guerre, però purtroppo non puoi fare nulla. Però adesso da quando c'è il digitale terrestre non ho avuto più problemi, vabbè paghi subito da tu io, capito? Oh, se ci sentiamo dopo, io vado a portare il cane. È quello. Ehi, c'è la gente, mi sono dovuto allontanare. Ci sentiamo dopo, ragazzi, vado a portare il cane, ciao. Ciao, grazie, ritieni salutato, ciao. Ciao Giulio. Sì, sta andando bene la radio, ciao Luigi. Ciao Lu. Dai, sono all'ascolto. acceso bene, dai. Il segnale non è forte, dove sei? Ah, io sì, va bene, dai. Il segnale non è forte, comunque la radio già va bene, dai. Ok, ci sentiamo, ciao. In che zona sei valido di Alghero? Ho detto in che zona sei di Alghero. Ah, ho capito. Ah, bravi. Ma Capatino che fine ha fatto? Carmelo, mio, quello di Alghero. Come si chiama la palacchino? Va. E poi c'è Pinaggio, te lo ricordo a Pinaggio? Ah, ho capito, vabbè, vuol dire che... Quella lì, da qua, come da Claudio. L'ho fatta arrivare, poi siamo andati ad Alghero a portargliela. Non so se c'è una palla. Siamo appresa a Sassari, mi sa. Vabbè, sapete Claudio, mi pare. Forse non mi ricordo, non vorrei dire una palla. Alla giura se fammi i denti. Valerio. Chi c'è qua? Valerio c'è. Eia, io sto mangiando, Lu, dai. A dopo. Ciao, pizzate, ciao. Saluta a tutti. E dopo non ci sono, ciao. Lo so, l'ho visto, bellino quel portale. Oh. C'è rimasto qualcuno qua in questo circo equestre? Valerio. Tutto a papà e siete andati a papà. Papate, papate, io sono qua in ascolto. Facci sentire, ciao.